anche Gesù aveva guarito un lebbroso, ma sapendola lunga gli aveva detto: vai e non dirlo a nessuno. Quando dico che Gesù la sapeva lunga, voglio dire che era ben consapevole di tre cose. Beh, innanzitutto di averla fatta grossa e di aver avuto un momento di debolezza di cui altri avrebbero avuto di che soffrirne, perché è più duro restare malati di fronte ai guariti. E da ciò lo sgravarsi la coscienza chiedendo il rispetto del segreto. Poi, era ben consapevole della singolarità di quel rapporto terapeutico. Sapeva che gli standard sono una finzione sociale e che ogni persona, come ogni malattia, è diversa dall'altra. L'invito a tacere era dunque un modo per valorizzare la guarigione e il guarito. Infine, era ben consapevole del fatto che il lebbroso guarito col cavolo che avrebbe taciuto sarebbe andato a spifferarlo ai 4:20 menandone gran vanto. Lo statuto sociale del miracolato apre crediti praticamente inestinguibili. L'invito a tacere era dunque una soluzione di propaganda più efficace di un'altra.